Signore e signori, buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Dallo studio dell'emittente radiofonica Rock FM. Trasmettiamo Eclettica! Cari ragazzi, buon pomeriggio. Il programma Eclettica. Rubrica dedicata ai problemi tecnici dell'agricoltura. Di e con Giulio Caperdoni. Inizia oggi il suo regolare servizio di trasmissioni televisive. Da parte mia, a tutti voi, l'augurio di una buona visione. Signore e signori, buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buon pomeriggio. Buonasera. Sera. Sera. Sera. Tra qualche istante vi trasmetteremo a colori. Eclettica! Eclettica! Eclettica! Andrà in onda tra qualche istante. Eclettica! Signore e signori, vi auguriamo buonanotte. Buonanotte. Buonanotte. Venerdì 7 dicembre, ore 19. Non prendetela però come ora esatta, i minuti sono sempre, anche quest'oggi, sempre qualcuno di più. Giulio Caperdoni in vostra compagnia per Eclettica, grazie ad Edo per avervi accompagnato fino a qua, e io a mia volta vi accompagnerò fino a Marco Garavelli, alle 20, quando ci sarà Hard and Heavy. Da 35 anni lavoro alla Carta Vecchia. Ed è la mia love story. Da 35 anni presso Carta Vecchia e Libri. Da 35 anni mi imbratto con i caratteri, sicché assomiglio alle enciclopedie, delle quali in quegli anni avrò pressato sicuramente 30 quintali. Sono una brocca piena di acqua viva e morta. Basta inclinarsi un poco e da me scorrono pensieri tutti belli. Contro la mia volontà sono istruito, e così in realtà neppure so quali pensieri sono miei e provengono da me, e quali li ho letti. E così, in questi 35 anni, mi sono connesso con me stesso e con il mondo intorno a me. Perché io, quando leggo, in realtà non leggo. Io infilo una bella frase nel beccuccio e la succhio, come una caramella, come se sorseggiassi a lungo un bicchierino di liquore, finché quel pensiero in me si scioglie come alcol, si infila dentro di me così a lungo che mi sta non soltanto nel cuore, nel cervello, ma mi cola per le vene, fino alle radicine dei capillari. Questo era l'incipit di Una solitudine troppo rumorosa, di Bohumil Hrabal. My eyes will burn. Mom, is that you? They're there now. You've been asleep for nearly 6 hours now. I had this horrible nightmare. I dreamed I was in a western. I was being chased by all these Indians and a bear. Well, you're safe and sound here now at the McFly Farm. McFly Farm? Ah! Well, you're my... Who are you? The name's McFly. Maggie McFly. McFly? Maggie? And that's Mrs. McFly, and don't you be forgetting the Mrs. Era questa Stefano, l'unico brano che oltrepassa i 3 minuti dall'ultimo album degli Altro. E questa invece è Eclettica, la voce, quella di Giulio Capperdoni, raggiungibile via mail all'indirizzo giulio@radiorockfm.com. Vi ricordo anche l'altro indirizzo myspace.com/eclettica, oltre ovviamente al sito della radio. Vi ricordo dell'esistenza del podcasting di questa trasmissione su MySpace o sul sito della radio, trovate tutto il dettaglio necessario. Vi ricordo anche dell'esistenza della lista nera, ovvero sia una mailing list alla quale viene inviata settimana per settimana durante il weekend la playlist della settimana che si è appena chiusa. Dopo avervi ricordato che quest'oggi abbiamo aperto con Emily Haynes and the Soft Skeleton e Our Hell, voglio parlarvi di Electric President. Vi ricordate di Electric President? Andiamo indietro addirittura di 2 anni per l'album d'esordio omonimo uscito per la More Music. Electric President che hanno una nuova canzone, per ora solo una nuova canzone, non c'è un nuovo album dopo 2 anni di distanza dall'esordio, una canzone che è estratta da una compilation uscita il 20 di novembre, canzone che si intitola Dotted Lines. Quell'anno lì, il 45, i tedeschi avevano perduto il dominio dello spazio sopra la nostra città. Figurarsi sopra l'intera regione, il paese. I cacciatuffatori avevano danneggiato le comunicazioni, a tal punto che i treni del mattino viaggiavano a mezzogiorno, quelli del mezzogiorno a sera e quelli della sera a notte. Sicché era successo a volte che un treno del pomeriggio era arrivato puntuale al minuto, secondo l'orario, ma solo perché era un accelerato del mattino con 4 ore di ritardo. Questo era l'incipit di Treni strettamente sorvegliati di Bohumil Hrabal. What might your name be, sir? Well, it's me. Eastwood? Clint. Clint Eastwood? Well, you hit your head, Mr. Eastwood. Not too serious, but lucky for you, Seamus found you when he did. Flashing dreams inside a life. Time is multiplying. Fantasizing about everyone she knows. Loving everyone. She knows, spent nearly a dozen nights haunting empty streets of factory gardens and feeling them with songs. Keeps on feeling them with songs. Found a drink I filled with wine, huge cold mix on the wild. While I strummed my way to God, man, you looked awful bizarre. Lying naked on your side, rose and chestnuts on the ground. Loved you till I nearly drowned. She pulled out 56 treasures, and the sounds would echo forever. In a cool mouth, she would know pleasure. On a lonesome, she is a survivor. You're in a diamond ring. It's true. afar keeps a pen knife in her pocket, smiles at strangers, afraid of cars. She drinks salt water and cocaine, told me it put hairs on her brain. Loved by all drunkards and the insane, they call her name out. Dopo The Manhattan Love Suicides con Last Stand e gli Hot Springs con 38th Adventure, è la volta di un brano ancora non ascoltato, a differenza dei due precedenti all'interno delle playlist di Eclectic, anzi un nome assolutamente nuovo per queste playlist. Loro si presentano con La Ragione Sociale, Beat Beat Whisper, ma sono due fratelli, un fratello e una sorella, Island e David, che vengono da Oakland, nella Baia, la Baia, quella con la B maiuscola, la Baia di San Francisco. Sono usciti con un album dal titolo First per Digital Cloud, dichiarano di amare Devendra Banhart e non ne avevo dubbi dopo averli ascoltati, e questa è And Suddenly A Part Was Shared. For health and strength and daily food, we give these drinks our daily sweet food. For health and strength and daily food, we give these drinks our daily sweet food. Bread breaks as bridges bust and quake underfoot, uprooted and waiting as blindside stroll casually by underneath the steps that behind will be leading. And at first glance, only form did he see, weathered by time, as lines side by side, placing mirror in front of he, his own rippled water, sudden spied, his own rippled water, his own two eyes. But they cried, cast not your away, will wash away these blades, they pray will wash away, will wash away, away, away, away, away. And looking far and farther on beyond, he sees the lighter skin clothes, darker eye notes, but inside it's the same as the sun from the eye. It was bright as the sun in the eyes. Mm-hmm. backwards beholds the elephant's child growing bolder and wise, with no fear in her step for her hide, for her cloak, and her trunk never stolen. So precious is her nose, so beautiful those nose. Strings, all the strings, they were.